vostre preoccupazioni. Scomparse, ve lo avevo detto. Noi non abbiamo problemi. Qui la vita è meravigliosa. Le ragazze sono meravigliose. Anche l'orchestra è meravigliosa. E allora Cabaret, sonata a Kreutzer. Questa è l'ultimo audio del nostro spazio di femministe e lesbiche in rete. La trasmissione che avete ascoltato l'abbiamo presa dal sito di Radio Cane, Radio Web. Che salutiamo, così come salutiamo tutte le radio che ci stanno ascoltando, Radio Blackout da Torino che sta rimandando il nostro streaming, Radio Massa, Radio Transizione di Fase e le Nosotras e nel mondo, a cui dedichiamo questa canzone. Sì. En la tierra yo me lusa, te reafirmo. 24 ore di maratona. Maratona radiofonica. Allora, in attesa di mandare un altro contributo audio dei tanti, tanti che ci sono arrivati, noi però dobbiamo fare prima tre telefonate. La prima per sapere com'è andato il processo, oggi aveva il processo a Ilaria, una delle arrestate del 15 ottobre, poi perché è in corso una occupazione al Ministero del Welfare con cui ci contatteremo. Pochi minuti, eh. Comica, drammatica, rimmica, melodica, poetica, Oscar, al comune corriente, nunca salirme della norma, nunca differente para lograr ser aceptada. Y con todo eso, las conozco muchísimas que son así y no han logrado nada. No son felices, no conocen ni sus narices. No las conocen. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Historia para las damas. No somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No somos iguales. Ella salía del bonche equipo más allá de las dos sábado en la noche. El punto pinta super serio, camisa cuadro, chapa y cuño de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, lucha dura, humillación, fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquierita el anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces es recóndita o subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo curvatura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, en la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal. Y si no entiendes lo que digo, échate pa' un lado y déjame actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar. Será en este siglo o en el otro. Mientras tanto, las crudas formando fuego, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los tines y hacer echándote esta super que real pila. Dolorosa esta pila. Coge 15 millones en África sin clítoris para vivir. Las cabezas negras su rostro nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No somos iguales. Violentadas, violentadores, no somos iguales. Penetradas, penetradores, no somos iguales. Las señoras, los señores, no somos iguales. La validez y los colores, diversidad. No somos iguales. E allora, come annunciato, ci colleghiamo con Roma e con un'occupazione in corso al Ministero del Welfare. Ciao, ci senti? Pronto, ciao a tutti e a tutte. Ciao, allora che state facendo e perché? E spiegateci che cosa sta succedendo. Sì, allora noi abbiamo occupato simbolicamente il Ministero del Welfare all'indomani della riforma del mercato del lavoro, che non parla di siamo in 100 precari e precari e vogliamo che la riforma prenda in considerazione anche il fatto che esiste tutta una fascia di lavoratori che non sono assolutamente tutelati dal sistema di lavoro attuale, anzi sono assolutamente svantaggiati. Chiediamo qui un reddito incondizionato di base, una maternità universale, e visto che oggi siamo in tema, insomma, è l'8 marzo, la ministra dovrebbe ben sapere che le donne sono assolutamente tra i soggetti meno tutelati dal mercato del lavoro, sia a livello di ammortizzatori sociali, sia a livello di maternità. L'abbiamo visto con il caso della RAI, con la clausola schifosa delle dismissioni in bianco, abbiamo visto che hanno alzato l'età pensionabile per le donne, stiamo parlando di un tesoretto di 44 circa miliardi che non verranno ridistribuiti per le donne stesse, insomma. Di cose da dire ce ne sono parecchie, vogliamo parlare con la ministra. E com'è la situazione lì adesso? Quante siete? Poi come stanno reagendo? Siamo un centinaio di precari e precarie e siamo qui in attesa di parlare con la ministra Fornero, ci hanno fatto alcune proposte ma non se ne parla di farci affrontare a viso aperto la ministra, forse mi sembra che siano arrivate già le camionette. E aspettiamo, magari ci richiamiamo. Va bene, ok, magari ci riaggiorniamo. Allora, grazie mille e un saluto e buona lotta anche a voi. Buona lotta a tutte. Ciao, ciao. Pronto? Porno soccorso? Pronto? Porno soccorso? Sì. Le tette biscottate sono partite in tema di telefonate. Meglio. E poi scusi, ma lei deve stare allora, come annunciato, torniamo con una telefonata. Siamo sempre a Roma e ne abbiamo parlato anche stamattina, tra l'altro salutandola. Oggi c'era l'udienza del processo a Ilaria, una delle arrestate del 15 ottobre. Siamo al telefono con una compagna che rapidamente ci aggiorna su come è andata questa udienza. Sì, buongiorno a tutte e tutti, sono fuori dal tribunale, a fine da poco l'udienza di Ilaria, che purtroppo è stata condannata a 2 anni e 4 mesi per il reato di resistenza a lui aggravata. Chiaramente, avendo la condizionale, Ilaria sarà da subito, da oggi, scarcerata, quindi le misure cautelari che aveva, gli arresti domiciliari, sono chiaramente revocati, perché con diciamo, una condanna inferiore ai 3 anni e la possibilità di usufruire della condizionale, automaticamente diciamo, le restrizioni e le misure cautelari vengono revocate. Quindi diciamo, da oggi Ilaria è fondamentalmente libera e torna in libertà, avendosi appunto, avendo giocato la sua possibilità di condizionale con questa condanna. Diciamo, un appunto, così, una nota di colore: il pubblico ministero in aula era Palamara, che come più o meno tutti sappiamo, esponente, portavoce di spicco della magistratura democratica. Insomma, non è un caso sicuramente che diciamo, a chiedere, insomma, ad accusare Ilaria sia così un esponente comunque della magistratura di sinistra in Italia, quindi così, una nota di colore. La richiesta del pubblico ministero erano 3 anni e sono stati accordati appunto 2 anni e 4 mesi. Comunque Ilaria adesso è libera e niente, diciamo, questo è un po' diciamo, i fatti. Poi chiaramente delle considerazioni magari avremo tempo e modo di farli, approfondendo un po' tutta la questione sui processi. Sicuramente una condanna più lieve rispetto a quelle esemplari di Lorenzo e Giuseppe, che hanno preso 4 e 5 anni per lo stesso reato, per l'imputazione dello stesso reato. Senti, ma non so se sì, sai anche qualcosa di Scarlett. Allora, l'udienza questa mattina, c'era l'udienza al Tribunale Civile per la questione del rimpatrio, che era già stato diciamo, bocciato dal Tribunale Penale. Io purtroppo in questo momento non sono ancora riuscita a sentire la compagna che è andata a seguire l'udienza di questa mattina. Quindi appunto magari riusciamo a fare durante la giornata anche un altro aggiornamento sull'udienza di Robert. Va bene, va benissimo. Allora, noi va ti bene. Ringraziamo molto e a presto. Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti quelli che sono privati della libertà, della propria libertà. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Radio Onda Rossa, il martedì autogestito da femministe e lesbiche, oggi 8 marzo con 24 ore di trasmissione. Un saluto a tutte le radio militanti che stanno diffondendo il nostro segnale nella rete o in FM in varie città. Un saluto speciale ovviamente a tutte le compagne, le femministe e le lesbiche che hanno contribuito alla creazione di questa giornata con i loro molti molti contenuti. È proprio una maratona. Allora, vi ricordiamo Radio Onda Rossa 06 49 17 50 per entrare in contatto con noi. Staremo ancora qui in radio fino a mezzanotte. Ebbene, abbiamo un altro intervento radiofonico, anzi telefonico. Abbiamo con noi al telefono Francesca Koch, che è la presidenta della Casa Internazionale delle Donne. Ciao. Grazie, Francesca. Buongiorno, buongiorno a voi. E siamo nella nostra maratona radiofonica femminista e lesbica. Abbiamo chiamato Francesca perché anche loro faranno una maratona di iniziative a marzo e volevamo chiederle quali sono le iniziative che ospiterà, sì, la casa. Grazie, molto volentieri. Allora, questo mese di marzo per noi è un mese un po' particolare perché ricorre il decennale della consegna di questa casa da parte del comune alle associazioni che l'avevano occupato per altri 15 anni alla fine di dall'85 in poi, e quindi intendiamo celebrarlo anche in modo critico, non solo diciamo per festeggiarci e anche per assumere la fierezza di quello che è successo in questi 10 anni, ma anche per una riflessione critica sul presente nostro e della città e del paese. E dunque abbiamo pensato di riproporre un po' i filoni che sono poi quelli che più hanno visto le nostre passioni, il nostro investimento, e intanto ovviamente il filone che sostiene una politica delle donne e quindi riflessioni sulla rappresentanza, sulla necessità che non solo che le donne siano presenti, come diciamo noi, ovunque si decide in forma paritaria, ma soprattutto che siano in grado di inserire e di imporre anche nuovi punti di vista e nuove prospettive nelle forme dell'amministrazione, nelle forme del potere e nelle priorità soprattutto delle politiche sociali, delle politiche ambientali, delle politiche urbanistiche. Abbiamo avuto proprio ieri un incontro importante con le compagne della FIOM che venivano a discutere della vicenda delle lavoratrici Fiat che sono sottoposte a un contratto separato e che subiscono ulteriori discriminazioni rispetto ai loro compagni maschi che pure sono penalizzate da questo nuovo accordo Fiat. Abbiamo ospitato le giovani donne che occupano da 4 anni la casa Lucia e Siesta, che è un'altra casa delle donne nella città di Roma. Quindi insomma siamo molto contente perché tutte queste realtà scelgono la casa proprio per proporre contenuti e strategie politiche. Un altro filone ovviamente è quello che riflette sul welfare, sulla salute e sulla salute riproduttiva. Noi abbiamo da quasi 2 anni un'assemblea che si occupa della difesa dei consultori contro gli attacchi delle destre che vorrebbero privatizzarli, e quindi siamo al centro di riflessioni appunto sulla necessità di garantire alle donne proprio la possibilità di scegliere sulla propria salute e sulla salute riproduttiva in particolare. E nella casa ci sono appunto associazioni che forniscono servizi in questa chiave, associazioni di psicologhe, associazioni di ginecologhe, associazioni di avvocate, associazioni per riproporre l'orientamento al lavoro, quindi noi stiamo già sperimentando in questa casa la possibilità di offrire un welfare dal punto di vista e con lo stile che può essere più opportuno per le donne. L'altro filone, che forse era il primo che avrei dovuto dire, è quello proprio della conservazione della memoria e della documentazione. La biblioteca che è in questa casa ospita tutta la documentazione dei centri femministi e si occupa appunto di riproporli ai ricercatori e ricercatrici, e anche da parte della biblioteca e di Archivia in questo mese verranno proposti incontri proprio di riflessione di carattere storico, di carattere critico sulla storia del femminismo. Penso per esempio il 13 ci sarà la presentazione della rivista Differenze, che è una rivista proprio storica del femminismo romano. E partirà nel mese di marzo anche un altro ciclo di incontri che riguarda la laicità. La laicità è una questione cruciale proprio per il femminismo, e quindi proponiamo alcuni incontri per rideclinare la laicità proprio in base alle nostre esperienze, la laicità nella scuola, la laicità nell'amministrazione, nella visione delle leggi, nella possibilità di garantire a ogni persona proprio il diritto a essere se stessa. E poi i temi della cittadinanza, che appunto viene minacciata dalle politiche attuali, cittadinanza di chi è nato in Italia e di chi in Italia ci è venuto per lavorare, quindi una grande attenzione ai diritti di cittadinanza dei e delle migranti in particolare, e anche un'attenzione a tutte le possibili differenze delle donne di altre religioni, di altri paesi. C'è nella casa un ciclo di incontri che riguarda appunto la galassia delle donne musulmane nelle loro specificità di geografiche e culturali a seconda dei diversi paesi. E proponiamo anche un ciclo di film sulla realtà migrante del nostro paese in associazione con la casa produttrice cinematografica Zalab, che è quella che poi ha prodotto il primo documentario Come un uomo sulla terra, che raccontava proprio gli orrori delle migrazioni e delle violenze che questi soggetti subiscono. Oggi in particolare c'è una presentazione di una giovane casa editrice che ha sede qui nella casa, che ha ripubblicato proprio la nuova edizione della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de Gouges, ghigliottinata nell'ambito della Rivoluzione francese, che appunto io assumerei questa proprio come il rilancio della storia e dell'attività di questa casa internazionale, che comincia proprio da questa dichiarazione dei diritti puntuali e specifici della donna e della cittadina. E guarda, tutto molto interessante, perché visto che siamo in streaming anche con delle radio libere di altre città come Torino e come Napoli e anche in Spagna, dici dov'è, per chi non lo sapesse, la Casa Internazionale delle Donne. Sì, la Casa Internazionale delle Donne è via della Lungara 19, è una strada che è a Trastevere a Roma ed è vicina al carcere di Regina Coeli. Tra l'altro anche questa casa era a suo tempo un carcere dove venivano recluse le donne cosiddette devianti, e quindi per noi siamo molto contenti di aver cambiato segno di questa casa, che da luogo di detenzione e di controllo è divenuto il luogo dove si può costruire la libertà delle donne. Ti ringraziamo. Grazie e a voi, a presto, buona giornata. Alla casa. Ciao. Grazie. Ciao. Lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotta, lotto. la sonrisa de George Bush, un genocida. Es la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. Es la sonrisa de George Bush, un genocida. Directamente de las tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica. Las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada resistiendo. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. Me paro a decir cosas pisando un escenario, para que mi voz suene por todo el hemisferio. Impone la sonrisa macabra de plástico, de nuevo martillando en mi cerebro ese sonido drástico. Imágenes de pueblos, baños de sangre, hambre, la garra de la bestia, reflejo de un miserable. El sable clava por la espalda la daga, es el verdugo trabajando en otra ejecución macabra. Sonrisa demoníaca, mortal, letal, nociva, la sonrisa de George Bush, un genocida. Dame de baja al guerrero, sacarle todas sus armas, lavado bien su cerebro. Prepárate, bestia, no subestimes mucho. El guerrero ha acumulado un odio ciego contra tuyo, como símbolo de vida, así fue Cristo Jesús. Hoy el nombre y apellido de la bestia es George Bush. Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia, rebeldía, que día a día crece. Hip hop me fortalece, espíritu engrandece. Actitud María Marta. Quattro ore di diretta radiofonica. Entra anche tu nel mito. MFLA su Radio Onda Rossa. I met you. Allora, torniamo in diretta alla maratona radiofonica 24 ore di trasmissioni di femministe e lesbiche. Eccoci qua. Siamo quasi puntuali, sono le 15:31. A quest'ora il nostro palinsesto prevede le voci di donna della Val di Susa. Abbiamo saltato però una trasmissione che è Parole che contano, a cura dell'associazione Connettive, che momentaneamente abbiamo dei problemi di audio, quindi per quel motivo ora ci siamo le contatteremo, ma per questo motivo ci siamo anche allungate con delle corrispondenze dalle piazze di Roma, e quindi procediamo con Voci di Donne dalla Val Susa, maratona radiofonica femminista e lesbica in streaming con Radio Massa, Transizione di Fase e Blackout, che salutiamo, che rimandano il segnale di Radio Onda Rossa. Sì, queste Voci di Donne sono un altro contributo del laboratorio Sguardi sui Generi, se lo ricordiamo hanno anche una trasmissione che si chiama Interferenze, va in onda domenica pomeriggio dalle 16 alle 17 su Radio Blackout di Torino, e quindi questo è un altro loro contributo per la nostra giornata radiofonica. Le salutiamo ancora, casomai fossero all'ascolto, ma pensiamo di sì, e mandiamo senz'altro le loro voci che hanno raccolto. Nell'ultima settimana c'è stato un grosso dibattito mediatico in seguito all'articolo uscito su Io Donna, in cui si discuteva del ruolo delle donne all'interno del movimento NoTav, dandone una visione molto stereotipata che in cui sicuramente non ci ritroviamo, e che ha ricevuto molte risposte, in primis proprio dalle donne del movimento. Avvicinandosi l'8 marzo, appunto, il dibattito è stato ancora più vivace, quindi oggi ne parliamo con Ermelinda, una donna che da anni partecipa al movimento NoTav, a cui chiediamo di raccontare proprio la sua esperienza come donna all'interno di questa battaglia. Ma quando si avvicina all'8 marzo di solito si comincia a parlare delle donne, quindi la stampa, i mass media hanno approfittato, diciamo, della notizia del momento, che è il movimento NoTav, quindi sono andati a ripescare le donne NoTav. Sappiamo, abbiamo letto tutti l'articolo, cioè se ne è discusso molto, dell'articolo del giornalista Sapegno, e si possono fare alcune considerazioni. Da una parte niente di nuovo, perché a trattare l'argomento è un uomo, è difficile ci possa essere un punto di vista obiettivo. Se poi è anche un uomo pagato dal Corriere della Sera, che comunque è un giornale che ha una certa impostazione borghese e liberista, non possiamo certo pensare che pensi alle donne come soggetti e non invece semplicemente come delle cose da esporre, o degli argomenti di cui trattare funzionali alla situazione di cui si deve parlare. Le donne in Val di Susa, se dovessi dire, non è che si definiscono femministe, quindi non è un punto di vista, diciamo, del femminismo, quello storico o ideologico. Qui c'è un protagonismo reale delle donne che hanno capito la profondità e la complessità di quello che potrebbe essere il futuro con quest'opera, ma soprattutto ne avvertono il disastro nel presente sulla loro pelle, e quindi si oppongono. E le donne è difficile che facciano lotte puramente ideologiche, anche quando abbiamo lottato negli anni passati per i diritti al divorzio, al voto, ancora prima, o all'interruzione di gravidanza. Erano lotte concrete, perché erano problemi che nascevano dai nostri corpi, dalla nostra realtà, dalla nostra quotidianità. O quando ci siamo battute per poter andare a lavorare, quindi chiedere servizi, che sono quelli che ci permettono comunque di avere più tempo. Le donne hanno fatto lotte di questo tipo e hanno anche trasformato molto, proprio perché sono state protagoniste. E in Val di Susa sta succedendo questo. Quindi chi cerca qui l'ideologia non la trova, né dal punto di vista del movimento, né dal punto di vista, direi, del femminismo. Qui c'è una concretezza, c'è un grande passo in avanti, secondo me, perché c'è un protagonismo praticato proprio con i corpi che sono, insomma, nell'immaginario anche filosofico, per le donne sono il punto centrale, quello su cui intorno ruota tutta anche la barbarie di quella che è diventato poi questo nostro corpo. Il corpo invece le donne della Valsusa, invece di svenderlo come avviene, perché possiamo, lo sappiamo benissimo com'è trattato il corpo femminile da questa democrazia in cui viviamo, e invece le donne della Valsusa il loro corpo lo mettono a disposizione della collettività e della libertà collettiva. Quando si mettono in prima fila davanti alle forze dell'ordine o vicino alle barriere che hanno creato le forze dell'ordine, proprio perché vogliono testimoniare e vogliono essere presenti e protagoniste, perché non delegano soltanto agli uomini quelli che sono momenti anche forti di questa nostra lotta, perché all'interno di queste situazioni che si sviluppano qui in Val di Susa ci sono le mamme, le nonne, i figli, i fratelli, i parenti, c'è la comunità, c'è tutto quella che è la nostra esistenza, e noi stiamo difendendo questo, le donne della Valsusa stanno facendo questo. Quindi quello che succede qui in Val di Susa è che c'è innanzitutto una comunità in lotta, e in questa comunità, visto che le donne ci sono e sono protagoniste, sono sempre presenti e facilmente quindi diventano anche bersaglio di quella che è un'altra parte della guerra che ci viene mossa, che è la guerra mediatica. Naturalmente si preferirebbe avere tutte delle donne che magari, come è stato già scritto e detto, nei presidi fanno il tè o preparano cibo, cosa che facciamo e fieramente difendiamo peraltro, però le stesse donne insomma che turnano nelle cucine, poi quando è stato il momento di stare sulle autostrade o di andare alle reti lo hanno fatto. Cioè non, qui la concezione che la donna deve stare a casa non c'è, perché qui le donne, soprattutto mi ricordo nel 2005 quando iniziò questa partecipazione massiccia popolare alla lotta, ci furono donne che litigavano con i propri compagni o mariti perché invece di cucinare a casa queste venivano a cucinare al presidio, e si sono difese, tante donne si sono difese questa libertà. E quindi questa lotta ha trasformato radicalmente anche tante piccole situazioni individuali che poi, o soggettive, che poi hanno un'importanza fondamentale nelle relazioni che poi tu hai, in quello che trasmetti, e la comunità si modifica anche attraverso queste cose qua. E quindi è la lotta che rende le donne della Valsusa anche così resistenti e così presenti, e questo è il dato secondo me importante, la partecipazione, la capacità, la volontà di credere che possiamo fare tanto e dobbiamo fare tanto per noi e per le generazioni future. Ciao Martina, vorremmo chiedere a te, che sei un abitante della Valsusa, come ti spieghi il fatto che in questa precisa fase il movimento No Tav sia sulla bocca di tutti, non soltanto in Italia ma anche nel resto d'Europa. Quali sono secondo te le ragioni? Comunque, il movimento No Tav, io sono nata nel movimento No Tav, ecco, ho 22 anni, quindi come dire, sono proprio cresciuta a pane No Tav, voglio dire, con la mia famiglia, insomma la comunità di Bussolene è sempre stata No Tav, e io sono cresciuta in questa lotta, quindi per me è la vita, no, questa lotta qui. In questo momento, come dire, il movimento No Tav non è più una lotta, cioè la lotta contro l'alta velocità non è più una lotta che è territoriale, è diventata una roba molto più ampia, anche insomma per quanto riguarda la situazione sociale che si è presentata in Italia in questo momento qua, di crisi insomma, in cui la gente insomma si è svegliata, ha capito come funziona il mondo, ecco. Quindi il movimento ha fatto anche sì che la gente capisse questa cosa qua, e niente, quindi adesso anche nelle città, insomma non solo d'Italia ma di tutta Europa e nel mondo anche, le persone, il popolo inizia a fare anche lotte territoriali, ma che vanno al di là appunto della territorialità, come dicevo prima. Ciao Rita, vorremmo parlare con te di che cos'è per te il movimento NoTav. Per me la lotta NoTav sono gli ultimi 20 anni della mia vita, che sono anche gli anni in cui sono nati i miei figli, in cui abbiamo dovuto organizzarci tra tutte le cose. Loro da quando sono piccoli vanno comunque alle manifestazioni. È stata una maniera per conoscere altre persone o persone che magari già si conoscevano ma che non si frequentavano, e soprattutto per riunire tante età, cioè persone diverse, con età diverse, soprattutto donne. E altre cose, in questo periodo la cosa diventa più difficile, le persone poi magari sono anche più stanche, però si è anche sicuri, guardando soprattutto le generazioni nuove e questo ricambio che c'è stato dal 2005, vedendo i ragazzi e le ragazze che magari 10 anni fa, 6-7 anni fa erano piccoli, che adesso sono lì e li vedi, li riconosci, ti salutano e lottano perché pensano che comunque sia una cosa giusta, e che alla fine questa cosa sarà positiva per tutto e finirà bene, e farà anche un esempio per altre realtà, e soprattutto per i giovani sarà un esempio, perché comunque saranno cresciuti con l'esempio di aver che lottando si riescono ad ottenere delle cose. Ciao, ti chiediamo cos'è per te la lotta NoTav. Allora, per me il movimento NoTav vuol dire partecipare alla vita quotidiana della mia valle, vuol dire mettermi in prima fila e lottare per quello che è per noi una battaglia giusta. E in questi giorni stiamo subendo un vero attacco, sia dal punto di vista militare, quindi con i manganelli della repressione della polizia, sia dal punto di vista mediatico, un attacco che stiamo subendo purtroppo dei principali mass media italiani, sia TV che carta stampata, per cui è importante far arrivare il nostro messaggio al di fuori della valle, e speriamo che tantissimi italiani possano unirsi nella nostra lotta, perché in questo momento c'è in gioco il futuro non soltanto di una porzione d'Italia, ma sicuramente una parte di tutta, si gioca l'Italia intera, nel senso che la nostra lotta va a toccare le tasche di tutti gli italiani, quindi è arrivato il momento di dire basta, di alzarsi tutti quanti in piedi e finalmente dire no a queste opere pubbliche costosissime e dire sì alle piccole opere, agli ospedali, al sociale, alla scuola, servizi che lo Stato ha deciso di tagliare per far mangiare le solite 4 ditte foraggiate dai partiti. Ciao Loredana, volevamo parlare con te e chiederti come il movimento NoTav ha influenzato la tua vita. E che cosa, come mi ha trasformato questo movimento? Diciamo che mi sono trovata di fronte a delle persone, a delle compagne, a delle ragazze, a delle persone già di una certa età, con una miriade di cose da esternare, da apprendere. È stato veramente una lezione di vita in tutti questi anni, un dare e un avere, perché veramente si è creato proprio un centro culturale. Io ho cominciato a conoscere la mia valle, quindi proprio le donne della Val di Susa, il cuore, l'anima della valle, dal 2004, quando sono cominciate questa lotta contro l'alta velocità, trovarsi insieme e trovare la forza da queste donne, che poi siamo noi, perché noi generiamo vita, noi siamo quella che dobbiamo dare il coraggio, la forza alla famiglia per andare avanti, e penso sia proprio questa forza, questa grandissima forza che ha la donna in sé, che riesce a... E allora queste erano voci di donne dalla Valsusa, purtroppo l'ultimo audio si sentiva non molto bene. Comunque una raccolta di voci di donne dalla Valsusa a cura del laboratorio Sguardi sui Generis, che ringraziamo, così come tutte le compagne, le femministe e le lesbiche che hanno pensato e ci hanno proposto i loro contenuti per questa giornata. Una piazza gridava Cristo in croce e ci dicia: Cristo lume padroni mi strapazza, mi tra... E femministe e lesbiche di tutto il mondo unite ai microfoni quest'oggi. Un saluto a tutte le ascoltatrici che ci stanno ascoltando da internet. Manco la vita mia. A tutte le amiche che ci vengono a trovare. Parlano dall'altra parte del vetro, ma noi sorridiamo, facciamo finta di capire, invece niente. Venite qua a dirci qual è la cosa. Se mia vita fu soffrida, sei che io posso mudar. Non vou me entregar. Não vou me entregar. Se minha vida foi sofrida, sei que eu posso mudar. Você vira estreito e planta pro ataque. Seguro o pá. Sou titulada tipo assim, majoritária. IDF é minha sigla, atitude feminina, meu estudo é fax. Então por qualquer um, não aceito ser julgada. Se olhe no espelho e limpe antes sua cara. Só por eu ser mulher, quer pisar em cima. Chegou a minha vez, vou fazer isso na rima. A idade da pedra já passou. O homem das cavernas não existe mais, morou? Sei que sou protegida por um ser celestial, que guia meus caminhos me afastando do mal. Que justiça seja feita, cedo ou mais tarde. E que no futuro se ajoelhem os covardes. Escuta esse recado, vê se não dá mancada. Quem diz está com tudo, às vezes não tá com nada. Te digo, sou quem sou e não quero mudar. Se eu tropeçar e cair, vou saber me levantar. Não perca o seu tempo tentando mudar minha mente. Ei, vê se não me... E dai che qui saltano i pezzi. Si autodeterminano pure loro la musica, no? Maratona radiofonica. Dai, tantissime le voci da questa radio oggi, Radio Onda Rossa. Il martedì autogestito da femministe e lesbiche insieme a tantissime altre femministe e lesbiche. Non lotto, sono lotto. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. In streaming dal sito www.ondarossa.info e per comunicare con noi lo 06 49 17 50 e anche una mail mfla@ondarossa.info. E un saluto alle redazioni di questa e di altre radio militanti. Chi si espone, esprime. Radio Onda Rossa, che ha reso possibile questa giornata, insomma, lasciandoci tutto il giorno libero da ieri a mezzanotte. Non mi sogno nemmeno di non realizzare. Transizione di fase, Radio Web, che ci sta mandando anche da ieri notte in streaming. Salutiamo tutte e tutti di quella redazione. Spengere, non ti prometto. Radio di massa da Napoli. Non hai niente da perdere. Salutiamo poi le compagne del collettivo femminista dei Generi. Si muove di una spanna, non voglio perdere il gusto, ogni occasione la sfrutto, da oggi sono pronto. E ovviamente le nostre radio sorelle, Radio Blackout, Radio Onda d'Urto, che manda il nostro streaming anche loro da Brescia. Noi facciamo sul serio. Basta. E allora poi tantissime le donne, le compagne, le femministe, le lesbiche che sono intervenute da ieri notte, lo ricordiamo, da Montreal, abbiamo approfittato ovviamente dei fusi orari, da Nuova Delhi, tempo prima di puntare, fare fuoco, prima di colpire, chi ho davanti non è poco, voglio darmi pari, migliori avversari, magari non come nemici ma come rivali reali, sono pronta a cedere e tornare indietro, ma voglio proprio vedere chi va per prima al tappeto. Da Montreal ovviamente. E poi un saluto anche a Madri per Roma Città Aperta, le donne, le compagne della Notav ovviamente, anche le compagne, no, dal Molin, le compagne del centro antiviolenza dell'Aquila che sono intervenute questa mattina nello spazio sulle lotte, la repressione e la militarizzazione. Le riflessioni, insomma, delle compagne sono molto importanti. Puoi entrare. Per noi almeno, insomma. La mia famiglia sul podio, l'aria cronica, il resto è dopo. E insomma, le salutiamo. Insieme a Vale, Pinovo, Torino, Jessica Gama, non siete sole. Corte difendere l'unica vera ragione. E salutiamo anche le compagne che in questo momento si trovano, i compagni precari e precari che si trovano al Ministero del Welfare e lo stanno occupando. Noi facciamo sul serio. E per questa ragione la trasmissione che seguirà dopo, Voglio cantare così fior de mimosa, non voglio fa il mestiere della sposa, sarà in una redazione ridotta perché ci sono alcune che sono bloccate al ministero. E vabbè, magari organizziamo dei collegamenti durante questa trasmissione, quindi occasione anche di informazione, non la perdiamo. E allora questo palinsesto di questa maratona che è un po' in fieri, siamo riuscite a recuperare quindi in buona qualità un audio che era un altro contributo per questa giornata dell'8 marzo, una trasmissione a cura dell'associazione Connettive. Associazione e trasmissione che insomma va in onda anche all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche, tutti i martedì dalle 17 alle 23 su Radio Onda Rossa, loro fanno uno spazio serale, la trasmissione si intitola Parole che contano. Allora, dato che in effetti non siamo riusciti a recuperarle prima, la trasmissione ha una durata di 30 minuti che troverete a giorni pubblicata nel nostro blog mfla.noblogs.org. Noi purtroppo tutti e 30 minuti non riusciremo a farveli ascoltare perché ci sono tantissime altre trasmissioni, il ritmo è serrato veramente, e quindi cominciamo col mandarvi senz'altro qualche minuto, una decina di minuti, 15 minuti di Parole che contano, trasmissione a cura dell'associazione Le Connettive che salutiamo. Lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotta, lotto. Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream, and they spread themselves Buongiorno a tutte da Ilaria, Valentina e Maria Grazia. Oggi 8 marzo, giornata internazionale della donna, che è stata istituita, lo ricordiamo, da Rosa Luxemburg il secolo scorso per commemorare le lotte delle donne contro violenze e discriminazioni nel mondo. Oggi parleremo non di violenza sessuale o sessualizzata, come molte studiose ultimamente affermano, ma di un'altra violenza più sottile, ma non meno distruttiva, quella cioè propagandata dalla tradizione culturale e che è stata a vario titolo sostenuta da diversi intellettuali della nostra civiltà occidentale. E lo faremo leggendo un testo di Nicola Vassallo, che è docente di filosofia teoretica all'Università di Genova, intitolato Così fan tutte, che è tratto dal libro scritto da Nicola Vassallo, Donna m'apparve. Su razionalità e oggettività. Le donne sono da sempre giudicate emotive, tradizionalmente quindi irrazionali, a tal punto che dalla sfera della razionalità sono state a lungo escluse. Non solo. La nozione di razionalità è stata impiegata, e spesso viene ancora impiegata, per etichettare positivamente gli uomini, mentre quella di irrazionalità per etichettare negativamente le donne. Nel tentativo di rimediare, sarebbe un errore rinunciare al concetto di razionalità. Se da una parte le donne rimarrebbero comunque intrappolate nel regno delle emozioni, dall'altra si giungerebbe a un'esaltazione, sempre assai pericolosa, del concetto di irrazionalità nelle donne e negli uomini. Meglio allora rivedere il concetto stesso di razionalità, considerandola come meno astratta, argomentativa, proposizionale e meno dissociata dalla corporeità di quanto abbia fatto finora la tradizione. Sul ruolo attribuibile alle emozioni in campo epistemico si veda comunque Jagger. Il concetto di razionalità non può essere identificato con la logica deduttiva classica, logica che sostanzialmente si deve ad Aristotele. Dato che in termini aristotelici a distinguere gli animali umani, ovvero gli esseri umani, dagli animali non umani, è proprio la razionalità, ne segue banalmente e rischiosamente che, se sono irrazionali, le donne non sono esseri umani. Così fan tutte. Fanno gli animali non umani. Poniamo invece di affermare che la razionalità degli uomini si deve al fatto che essi nutrono certe credenze in base a ragioni appropriate, a differenza delle donne, le cui credenze si devono a emozioni, fedi folli, decisioni capricciose, impulsi azzardati, wishful thinking e via dicendo. Ciò che stiamo affermando non è supportato da alcuna ragione valida, non disponiamo di alcuna prova che le cose stiano effettivamente così per gli uomini e per le donne. E quindi la nostra stessa affermazione è, in base a quanto essa stabilisce, irrazionale. Purtroppo diverse filosofie tessono le lodi dell'irrazionalità, filosofie di matrice anche femminista, spesso con il solo risultato che a più di una dicotomia sessista viene conferito nuovo vigore. Perché, nonostante tutto, gli uomini continuano a rimanere per molti non solo animali umani razionali, ma anche attivi e oggettivi, mentre le donne non solo animali non umani irrazionali, ma anche emotive, passive, soggettive. Non ci si deve stupire più di tanto, quindi, se i sinonimi di uomo, nella più recente versione di Microsoft Office Word, sono essere umano, persona, individuo, genere umano, il prossimo, umanità, gente, maschio, adulto, addetto, operaio, tecnico, giocatore, atleta, soldato, militare, elemento, unità, un tizio, un tale, uno, qualcuno. Mentre i sinonimi di donna sono femmina, gentil sesso, bel sesso, sesso debole, signora, signorina, donna di servizio, domestica, cameriera, collaboratrice familiare, colf, governante, dama, regina. È evidente che, ancora oggi, le donne rimangono sostanzialmente, per la maggior parte, donne di servizio, domestiche, cameriere, collaboratrici familiari, colf, governanti, anche in virtù del solito pregiudizio. A donne di servizio, domestiche, cameriere, collaboratrici familiari, colf, governanti, non sarebbe richiesta razionalità e oggettività alcuna per svolgere in modo degno le proprie mansioni. Tacciate di irrazionalità, emotività, passività, soggettività. Le donne non vengono incoraggiate a nutrire fiducia nelle proprie capacità mentali e di conseguenza ad aspirare a posizioni di spicco sul piano culturale e professionale. Non è certo un caso se si assiste da una parte al proliferare di veline, letterine, troniste, modelle e dall'altra a un'assoluta rivalutazione del ruolo delle donne in quanto essenzialmente madri, a tal punto che a volte sembra di essere ritornati a una rappresentazione conservatrice alla Jean-Jacques Rousseau. Le donne devono essere accondiscendenti e sottomesse, capaci di soddisfare i soli bisogni del proprio partner e dei propri figli, mogli, madri e null'altro. Si vedono le pagine dedicate a Sofia nell'Emilio.